svegliami nel cimitero. Eroe, clero, sveglia sogni infranto, addormenta ieri, vita d'inganno che frilla, sveglia il serpente sanguinoso mistero, ai piedi d'uomo, che bimbo di retta troppa via, condusse pulito nella marea di sangue tuono, dicendo no alle dee, paura scoppisse sotto utopia e stelle belle. Amami nell'arcano del massacro d'orgasmo, la guerra assassina sopra, potere invincibile dura, stormi di pensieri rubati ai cieli degli infami in fila indiana davanti al karma harakiri di ami. Amami, appesi loro a cui fagocitante tela di mantide, nutre figli e divora essa l'iride del padre l'erede. Ora puoi con me vedere, oltre le ceneri, fenice che risorgi in fila di bianco candor narice. Sollevati, stormo vangoghiano di parole non udite, che te, Nice, danzi stella mentre fior di merettrice sublime vien colta dal denaro ira, sfavilla contro te lussuria carta, il filigrana di frusci e luci fluo vibra ira, nel neon di visione al ritorno, dal cavalcare il cammin, tra fiore e stella, urlando libertà a zenith della giostra più bella. Svegliami nel cimitero eroe, l'ero sveglia al sogno infranto, addormento ieri vita d'inganno che trilla, sveglia il serpente sanguinoso mistero e piedi d'uomo, che bimbo di retta troppa via condusse il pulito della marea di sangue e tuono, dicendo no alle dee, paura sconfisse sotto utopia e stelle belle. Amami nell'arcano del massacro d'orgasmo, la guerra assassina sopra, potere invincibile dura, torni di pensieri rubati al cielo degli infami. Infile niente.